America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump è già in Israele per la seconda tappa del suo primo viaggio internazionale, un viaggio denso di significati politici e di colore. Ecco, vi ho fatto ascoltare la danza cerimoniale delle spade. Fuori dal palazzo Murabba a Riyadh hanno partecipato Trump, Rex Tillerson, Wilbur Ross, il segretario al commercio, e si vedono il presidente americano, appunto Tillerson e Ross, danzare il ballo tradizionale delle spade, con questa musica araba di sottofondo e naturalmente spade in mano e movimenti, devo dire, alquanto goffi, soprattutto quelli del 78enne Wilbur Ross. Ecco, detto questo, il colore serve. E che piaccia o no, per Donald Trump il debutto internazionale in Arabia Saudita e oggi in Israele, sono già un successo personale, oltre che politico. Soprattutto questo viaggio ha avviato un nuovo corso nei confronti del mondo islamico, con al centro dell'equazione un baratto. Ecco, sentiamo su cosa poggia questo baratto. We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live, what to do, or how to worship. Instead, we are here to offer partnership. Ecco, questo è Donald Trump che parla di fronte ai leader del mondo arabo in una riunione plenaria dove ha pronunciato il suo discorso, un discorso molto importante. Dice: noi non siamo qui per dire a qualcuno come vivere, come lavorare, come pensare. Siamo qui per offrire un'alleanza. Il nostro scopo è quello di creare una coalizione di nazioni che condividono l'obiettivo di fermare l'estremismo islamico e di offrire ai nostri figli un futuro di speranza. Dopodiché, qual è l'altra parte del baratto? In cambio, dice Trump, vogliamo assoluta determinazione nella lotta al terrorismo. C'erano tutti, come dire, dall'Albania alla Malesia, da Burkina Faso alla Tunisia, dalla Palestina all'Uzbekistan, dunque Asia, Europa, Africa, Nord Africa, Medio Oriente, e tutti hanno firmato. Trump ha anche recuperato la vecchia strategia dell'isolamento dell'Iran, cosa che ha destato naturalmente un po' di polemica. Ci sono state reazioni del ministro degli esteri iraniano, cioè, ma come, noi abbiamo appena avuto una elezione democratica e questo signore ci attacca? Ma perché questo? Perché Trump voleva restituire fiducia e un ruolo centrale nella regione, nel mondo islamico, all'Arabia Saudita, che si sente in stato d'assedio proprio sotto l'attacco dell'Iran, che sta un po' dilagando nel Golfo. L'Arabia Saudita naturalmente ha ricambiato Trump con un'accoglienza regale, con la firma di accordi economici per centinaia di miliardi di dollari, e il presidente americano ha anche fatto un appello, questo è un altro aspetto molto importante del suo intervento, un intervento molto lungo, molto articolato, ha fatto un appello, dicevo, perché le tre religioni monoteistiche possano lavorare insieme per creare la pace in Medio Oriente. Ecco, questo è un appello che difficilmente potrà essere ignorato da Papa Francesco quando incontrerà Donald Trump a Roma. E qui ho fatta una considerazione, perché vi dicevo all'inizio può piacere o non piacere, perché è chiaro che a molti l'intera impostazione coreografica e politica di questo viaggio non è piaciuta, ma questa nuova dottrina Trump, attenzione, pensata non da Trump ma dai suoi fedelissimi, a partire da H.R. McMaster, grande stratega, capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ecco, rappresenta questa dottrina pur sempre una svolta chiave. Invece devo dire, molti commenti dopo i discorsi, le riunioni di domenica, sono state un po' ingenerose, secondo me, nei confronti di un presidente che si trova effettivamente in gravi difficoltà a casa, sia sul piano delle promesse elettorali che su quello della politica. Elliot Abrams, ad esempio, dice: ma il presidente non si occupa di quelli che sono i problemi veri, alla radice di questi paesi. Ma è proprio quello che Trump vuole evitare. Trump cambia rotta, cambia rispetto a Obama, che voleva introdurre elementi di democrazia, eccetera, eccetera, e dice: fate quello che volete, basta che combattiamo e stirpiamo insieme il terrorismo. All'estero ci si preoccupa molto meno degli scandali interni che perseguitano Trump, le due cose sono separate, lo scossone c'è stato, molte delle promesse elettorali in materia sono state mantenute, il mondo islamico e arabo ha accettato, almeno sulla carta, vedremo poi come andrà a finire, la responsabilità collettiva di combattere in modo attivo l'estremismo religioso e le barbarie dei terroristi. Certamente il male più grave del nostro tempo, da cui sono derivati gli sconquassi politici e sociali che minacciano anche la stabilità dell'Occidente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Trump ha cercato di portare un messaggio di unità in Medio Oriente, di obiettivo comune per combattere il terrorismo. E dunque, come canzone del giorno di Cat Stevens, Peace Train, il treno della pace. I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be someday it's going to come. Well, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. Someday it's going to come. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!